Lupo Nair, Summer Spurgo. Ritrovati a questa terzo episodio di Lupo Nair Summer Spurgo, la versione estiva di Lupo Nair in cui sentite solo la voce di Vanni che vi presenta un po' di robe avanzate del resto dell'anno, e Flamica ci benedice dall'inizio della puntata. Ciao Flamì, abbiamo appena ascoltato i Scimitar da Los Angeles, California, una band di dark wave moderna, però fatta all'antica naturalmente, come sempre, perché il dark wave viene così dall'antico, quindi ci teniamo così. E La Oscurità è il brano degli Scimitar, e adesso passiamo ad ascoltare invece i Wilt, da Winnipeg, Manitoba, Canada. Dicono black metal, sembra doom metal, comunque sia metal, e atmosferico, triste. E dal loro ultimo EP, non è un album, ma un EP grosso, intitolato Hugin, ascoltiamo il brano, qual è il brano? Cloaked in Ash. Loro sono i Wilt o Wilt, boh. Thank you. Bonaire Summersburgo. Pezzetto che Ren Sheffield fa casino con il nome di Container dagli Stati Uniti, e da poco ha pubblicato questo album bello caciarone intitolato Yecker, uscito per la Mute Records, quindi robe grosse. E da questo album abbiamo ascoltato il brano Spray. Oh, spray si direbbe in americano, lo spray mi piace di più di lo spray. E ora passiamo ad altro, naturalmente con gli Antipol, che è il progetto di Carl Mortendal di Trondheim in Norvegia, una roba punk, post-punk, dark wave anche questa, con alla voce ospite Paris Alexander di Brighton, che è uno che si diverte fondamentalmente a cantare per Antipol, che però sono, anziché fare una band, sono Antipol e Paris Alexander. Ok, rispettiamo i diversi. L'album si intitola Crystalline, quello che hanno fatto insieme, e da quest'album ascoltiamo il brano Midnight Shadows, Antipol and Paris Alexander. Thank you. Lupon Air, Summersburgo. Bring it on. Mica li conoscevo sti Lucifer, cioè non mi sono accorto, loro zitti zitti sono arrivati al quinto album, cioè è una roba importante, perché è una band che vabbè, l'unico membro fisso è la cantante Johanna Sadonis, però che è tedesca, però il resto della band coinvolge personaggi grossi della scena doom metal internazionale, da Gaz Jennings dei Cathedral, che c'è stato all'inizio per un bel po', e ora c'è pure Nicky Anderson, ex Entombed, ma tante altre robe alla batteria, e quindi meritava il rispetto, ma comunque però io l'ho ascoltato a casaccio e mi sono divertito con il loro quinto album, Lucifer 5, V, come ci piace a noi. Il brano che abbiamo ascoltato era Immaculate Heart, nella versione radiofonica, guarda un po'. E invece tutt'altro roba, ma forse sicuramente degli impulsi satanici ce l'avranno uguale, perché sì, sono gli Splatter da Iesi, un trio ignorantissimo che hanno da poco pubblicato un nuovo album, da parecchio tempo in silenzio. L'album si intitola Sounds for Families, suoni per famiglie, è uscito per la della Wrong Disc Records di Vito Fanale. Ciao, ciao, bello. Ascoltiamo il brano. Qual è? Black Pearl. Loro sono gli Splatter. Yeah. Summersburgo. Roar, che è quella zona là tedesca, è il nome che ha preso questo tipo italiano che però vive un po' a Berlino, un po' in Italia, allora nel dubbio dimmo che cantiamo in tedesco, dai. È uscito un EP recentemente per la Brutal Forms, un'etichetta italiana di roba antipatica, e da questo EP abbiamo ascoltato questo brano che era 25 in tedesco, Kilometer. Com'è il 25? Svanzig, boh, vabbè, non imparerò mai tedesco, niente da fare. Forse è più probabile che imparo il romano. Loro sono i Niglio, che sono un duo composto dai fratelli Niglio, Pier Domenico Niglio e Cristo Damiano Niglio. Hanno pubblicato un album intitolato Penombra. Da quest'album andiamo ad ascoltare il brano 7500. Immagino sia il cap de mi sembra da queste parti, che chissà, Niglio. fra strade di chianche. Poner Samersburgo. Most raga, a me il Lebanon Hanover mi è sempre stato sul cazzo, c'è niente da fare. William Maybelline, mi ricordo troppo il tipo di Smashing Pumpkins che mi è stato sempre sul cazzo, e quindi vabbè, un po' di pregiudizio ci sta. Però devo dire che questo ultimo EP, Tech Sick di Qual, che è il progetto solista di William, si è fatto apprezzare. Il brano che abbiamo ascoltato era Dancing in Hell da Qual. Passiamo ad altro, a qualcosa di più palloso ma altrettanto divertente, diciamo. Il Clown of Ximox, Oximox che dir si voglia, da Amsterdam, ma ormai residenti a Lipsia, perché fondamentalmente l'unico membro fisso della band è Ronnie Moorings, il frontman. Sono arrivati al traguardo del diciottesimo album. Non si fermano mai. Si intitola Exodus, da quest'album ascoltiamo il brano Blood of Christ. Their own. Embolo, cosa vi ricorda Embolo? A me non me ne frega niente de Pallò, però l'ho sentito nominare questo Embolo da Svizzera. E da Svizzera, da Ginevra, Svizzera arrivano questi Bound by Endogamy, che fanno industrial come piace a noi. Quindi dal loro album omonimo abbiamo ascoltato il brano Stuck in Loop. E niente, siamo arrivati al termine anche di questa graziosissima puntata di Lupo Nair Summersburgo. Andiamo ad ascoltare Scoopin. Stephen Scoopin, che è crucco di un posto in Crucconia, va molto forte da quelle parti, tant'è che la All Rooms ha pubblicato un album che raccoglie un po' di singoli e altre novità, intitolato Reliquien. Da quest'album ascoltiamo ora, per chiudere questa puntatina, il brano Müde Wach. Che vuol dire tipo sveglio, indormito, qualcosa del genere. Ma che ve frega, su. A giovedì prossimo, dai, ciao! Da Lupo Nair Summersburgo! Anders als wir beide trag ich mich auf meinen Beinen. Summersburgo.